o si ricorre al nome di Emmanno? Vi propongo di assumere, comprendere, spiegare il significato puntuale, per quanto possibile, del termine Arimanno. Questa sede poche volte mi soffermo su quello di Arimania, in rapporto anzitutto con il periodo storico in cui appare la situazione concreta che è costituita, oltre che dalla natura dei singoli documenti e dalle occasioni o finalità contingenti della loro redazione, in larga parte si tratta di documentazione di natura contenziosa, dalla storia dei singoli territori, dai villaggi, castelli o distretti rurali, per alcuni territori comitali della Langobardia, soprattutto per quelli di Verona, Padova, Treviso, Mantova, fino ad un'intera regione storicamente connotata come la Romagna nel suo insieme da prima, poi per la sola zona della Traspadania ferrarese. Facilita, in qualche misura suggerisce, la comparazione tra questi territori della Langobardia e della Romagna, una vicinanza non solo geografica ma anche politica, poiché alcuni territori furono assoggettati ad un medesimo potere. Vaglia l'esempio di Mantova e Ferrara, soggette ai Canossa, o nel suo regno ampia influenza. I gruppi di Arimanni considerati sono in larga parte già noti alla storiografia in materia, ma di loro, per motivi ovvi, non sono state, in genere, delineate le vicende specifiche. L'individuazione delle zone serve a questo fine, a conoscere in concreto la dinamica interna ai singoli domini signorili, fossero questi domini costituiti da ambiti di dominazione esercitati da una dinastia ducale, Canossa, marchionale, Estensi, comitale, signorile, o da una chiesa assai rilevante politicamente, Ravenna, da chiese vescovili, Padova, Ferrara, da grandi o minori monasteri. Ampie sono tuttora le carenze per i singoli territori di studi aggiornati metodologicamente, né noi stessi abbiamo potuto esplorare per alcune zone la documentazione inedita in modo sistematico. Soprattutto quella assai importante tra XII e XIII secolo, che è essenziale per conoscere l'esito delle vicende dei singoli gruppi arimannici e talvolta anche la loro storia precedente. Meno sicuri ancora appaiono i risultati degli studi anteriori nella prospettiva dell'illustrazione dei rapporti tra comuni cittadini, signorie e comunità rurali, alla cui luce vanno esaminate le attestazioni della persistenza o della presenza rinnovata dei gruppi di Arimanni in età comunale, la cui qualifica, da un lato, può essere assunta quale giustificazione della loro soggezione al comune cittadino, come nel ferrarese, dall'altro lato può assumere ancora, fino ad essere orgogliosamente rivendicata, una connotazione positiva, quale riflesso immediato di una condizione di libertà della persona, dotata di proprie autonome basi economiche e in rapporto diretto con il potere pubblico. Nell'ambito più ampio dei rapporti città-contado, in età precomunale e nella prima età comunale, possiamo cogliere un caso unico di rovesciamento delle posizioni fra cittadini e rustici, nell'assunzione della qualifica di Arimanni da parte di Cives di pieno diritto, come accade appunto a Mantova. Mentre possiamo constatare come la situazione ferrarese, pur nella sua specificità, rientri nelle linee generali di evoluzione della Langobardia, nella separazione da prima tra città e contado, nell'associazione precoce poi del comune cittadino e delle comunità rurali, non paragonabile dunque se non per contrasto alle vicende dei cittadini arimanni mantovani. Ora è opportuno richiamare brevemente, prima di procedere, i risultati dell'indagine del tabacco. Egli ha mostrato che il termine arimanno, di derivazione lombarda, è rimasto vivo in età carolingia nell'uso popolare, per indicare gli uomini liberi, provvisti di beni propri, che riponevano le condizioni materiali ritenute sufficienti all'assolvimento delle funzioni pubbliche principali, tra le altre, quelle della custodia del placido militare, della spedizione militare o della difesa locale. In questo significato complesso, vano, non esattamente definibile, il termine venne assunto nella tarda età carolingia dalla cancelleria imperiale, fino ad essere ripetutamente impiegato nei capitolari emanati negli anni 891 e 98 dagli imperatori della dinastia spoletina. Il rapporto diretto con gli ufficiali pubblici, il conte e i suoi animali, dicono appunto i testi del capitolare del 91, è preservato e sollecitato dal regno almeno sino alla fine del secolo IX, ma poi dal regno via via abbandonato, giungendo, anzi il regno stesso, a farsi promotore della decadenza degli Alemanni e del loro scivolamento all'interno delle incipienti dominazioni signorili. Premesso, e larga parte di quanto detto è già nella nel foglio distribuito come riassunto, io procedo ora in maniera sintetica, forse dovrò anche saltare alcune parti, dipenderà dall'orologio, a dividere la trattazione in quattro parti, che evidenzio subito, nel caso appunto che sia costretto ad omettermi qualcuna per ragioni di tempo e di tolleranza da parte di chi ascolta. Prima parte, la Langobardia, con riferimenti specifici ai territori di Verona, di Padova, di Treviso, ai domini dei Canossa e ai domini degli Estensi, e con riferimento ad altre zone, lombarde, emiliane, occasionali. Seconda parte, i Cives Arimanni di Mantova, il caso unico. Terza parte, la Romagna, per intendersi l'area di influenza della Vendata, esarcato e tentato. Una prima distinzione nella comparsa di termini Arimanni, Arimannina tra X e XI secolo in zone diverse della Romagna. Un secondo momento, tra XII e XIII secolo, quando Arimanna e Arimannia compaiono in una sola zona, nella Traspadana ferrarese, così vicina alla Lombardia. Quarta parte. Liberi, Arimanni, conti, signori e comuni cittadini. E poi spero di poter almeno mostrare con ampiezza le osservazioni conclusive. Dunque, la prima parte, la Langobardia, con riferimento a territorio veronese e agli Arimanni, che qui ben si evidenziano, nel loro rapporto tra impero e signori e signorie romane. Gli Arimanni, dunque, nei distretti signorili. Per lo più farò citazione rapida, dedicherò qualche cenno più sviluppato a due o tre situazioni simili. Le prime testimonianze specifiche di Arimanni per il territorio veronese provengono dai diplomi imperiali degli anni 967-970. Sono ben noti, soprattutto il primo. Essi caratterizzano gruppi di uomini liberi connotati dalla loro residenza in un territorio specifico che afferisce ad un castello, il castello di Romagnano, un nome così evocativo e variamente interpretato, che vengono assoggettati da Ottone I al monastero veronese di San Zeno. Il secondo diploma concerne invece l'utilizzazione da parte dei coloni, dei coltivatori di terra di un monastero veronese, di una silva Arimannorum che, guarda un po', è posta proprio vicino a Roma. Romagnano, non distante dal castello nominato. Altre menzioni dei Rimanni sono dalla metà e oltre del secolo XI, quando l'imperatore concede, sempre al monastero di San Zeno, nel 1055, tre piccoli gruppi di Rimanni, quattro Rimanni per tre località, 12 in tutto, i cui diritti, che d'ora in poi appunto dovranno essere dei doveri pubblici assolti nei confronti della parte del monastero, erano già stati concessi dal duca Quello terzo. Ancora, e su qui mi soffermerò fra un momento, nel 1084 Enrico IV assoggettò gli Arimanni di San Vito di Valpolicella sempre al medesimo monastero. Nel secolo XII menzione anche ampia di ampi gruppi di Arimanni compaiono nelle carte di altri enti ecclesiastici, ad esempio del capitolo dell'Onese. Una convenzione tra le tante che dalla metà, dalla metà del secolo XI si stipulano fra signore e comunità rurale di castello e di villaggio. Nel 1121, in una di queste pattuizioni, noi possiamo vedere come gli abitanti del castello di Marzana sono in questa carta di convenienza, definiti in vari modi successivi e insieme, come vicini, come arimanni, come villani. Fra le varie clausole vorrei segnalare quella che obbliga i vicini arimanni a non fare entrare nel castello, a non permettere che entrino attraverso acquisti o altri modi nel castello, degli uomini definiti famuli, per evitare che i loro signori o proprietari, entrassero una volta nel castello minando la superiorità giuridica, la giurisdizione stessa. Ancora, sempre nel carte del capitolo, per un altro paese della Pantena, Rezzana, si nominano gli arimanni del capitolo, e significativamente, come in altre occasioni vedremo, essi sono chiamati, nel riferimento all'arciprete, ad Omnus, i suoi arimanni. Rimane questa connotazione dall'età dalla prima età post-carolingia, ricordiamo i diplomi, i capitolari cosiddetti della dinastia di Spoleto. Soffermiamoci un momento sulle vicende degli arimanni di San Vito di Valpolicella. Essi sono noti fin dall'inizio del secolo, per arrivare all'opera del tabacco, sono note attraverso il diploma imperiale. Le loro vicende invece sono molto lunghe e arrivano agli inizi del secolo XIII, permettono quindi di comprendere un po' meglio la loro condizione. Il monastero di San Zeno vede riconosciuto, tra tanti altri, il possesso, la proprietà, meglio dire, del castello di San Vito fin dall'anno 1014, in un privilegio di Enrico II, che viene poi riconfermato successivamente. Ma nel 1084, un privilegio di Enrico IV entra in maggiori dettagli, specificando che i liberi uomini che comunemente sono chiamati arimanni, abitanti, attenzione, nel castello, nel territorium del castello, con i diritti giurisdizionali completi, distrezzo, placito, forum, debbono essere assoggettati alla signoria della patria. Non abbiamo più testimonianze fino alla fine del XII, all'inizio del XIII, quando, non solo nel territorio veronese, ma in molte altre zone della Padania, avvengono delle contestazioni, limitazioni, accordi di giurisdizione che sono ovviamente definiti e ampiamente. Possiamo, attraverso le documentazioni di quegli anni, constatare una stratificazione all'interno della comunità rurale, che si divide grosso modo, la documentazione non è proprio univoca nel suo significato, bisogna fare uno sforzo un po' di razionalizzazione, che si distinguono, diciamo, in tre categorie. Gli obblighi, gli abituali del monastero, cioè coloro che detengono le terre per coltivare nel monastero, i detentori di terre in feudo, e infine un gruppo numeroso, abbiamo a volte anche i nomi, di coloro che sono obbligati a giurare la fidelitas all'abate in qualità di uomini liberi e animali, cioè in quanto solo soggetti alla giurisdizione del Signore. Ma costoro sembrano quasi limitare la giurisdizione stessa, più che a se stessi, ai coltivatori delle terre del monastero, in un gioco quindi dinamico e complesso, come se il monastero dovesse ridursi l'abate adesso un signore che abbiamo fondiario e non rurale o di parte. Un altro episodio, sempre della fine del XII secolo, per una zona nella quale, per una località nella quale la presenza degli arimani è, sia pur per un solo cenno ma significativo, già in precedenza. Si tratta di Vigasio, San Vito di Valpolicella è, Valpolicella forse più o meno nota, una località di collina, nelle zone privilegiate, nell'alto e nel medioevo. Vigasio invece è alle soglie della bassa pianura e quindi una zona diversa. Qui abbiamo un solo cenno, quello di aver passato tutte le carte inedite, siamo sempre in presenza di documentazione inedita relativa alla zona. Nel XII secolo, nei primi decenni, a un certo punto, in maniera occasionale, quasi sempre è occasionale la citazione, si parla di un punto cruciale tra le nevragiche del paese vicino al castello e al ponte di passaggio, si parla della presenza di una terra anima norma. Va bene, non abbiamo altra documentazione privata che riguarda gli animali di Vigasio, se non la loro soggezione al monastero lì, diciamo, ribadita da Federico I in un suo diploma all'Ente. Verso la fine degli anni 90 del secolo, un abitante di Vigasio, non fra i minori, perché era già stato gastardo locale, per nome significativo Buccadura, si rivela alle prepotenze, secondo lui, degli agenti signorili e ricorre al podestà cittadino, ormai consueto. A Verona il ricorso alle autorità comunali avviene a partire dal 1136 da parte degli abitanti o dei signori del contado per difesa degli interessi del contado, ma dopo la pace di Costanza questo diventa ovviamente pacifico e di diritto il ricorso alle autorità comunali e ai giudici del podestà. E di fronte ai giudici rivendica in maniera orgogliosa di essere arimanus in perdonis e quindi di non sottostare, di non dover alla giurisdizione dell'abate. Gli avvocati dell'abate hanno molti causidici hanno un buon gioco per mostrare i privilegi imperiali che sanciscono proprio la dipendenza degli animali. Tuttavia si arriva a un compromesso, si dà ragione all'abate, ma si invita l'abate a regolare, a attenuare, a sorvegliare l'attività dei suoi agenti locali in modo da non danneggiare i liberi del luogo. Questo ricorda un episodio del 92 che avviene nel bresciano a Manerbio, il documento ho potuto vedere solo nell'extractum pubblicato da Lodovici, che va verificato poi nella sua originalità, dove si parla di arimani che deterrebbero dei nemora, definiti comunia, boschi comuni, che vorrebbero utilizzare, rivendicando questi boschi, sarebbero da loro tenuti per imperatore. Questo ricorso all'imperatore deve essere anche attenuato nella sua portata, perché certamente nel ricorso all'imperatore dovete agire anche, dovete avere parte l'azione dei causidici, che conoscevano le disposizioni pubbliche, dai Procadia in poi, la fase di Costanza, per il Veronese è accertato che negli anni immediatamente seguenti i causidici conoscono la fase di Costanza e se ne servono in una maniera del tutto spregiudicata, facendo dire al testo cose che il testo assolutamente non ha mai detto, ma tant'è, questa è l'arma che nei tribunali può servire. L'esempio sono ulteriori, ma tralasciano. Territorio padovano, anche qui abbiamo ecco, almeno un episodio che alla storiografia è ben noto. Si tratta degli Alemanni della Sarcisica, gli Alemanni di Sacco. Chi si è interessato un po' a queste questioni sa che ci si incontra sempre con gli Alemanni di Sacco. Ma anche qui dobbiamo veramente lamentare la mancanza, l'assenza di studi dedicati a alla vicenda del territorio e nel rapporto con il territorio circostante, nel rapporto con il regno dell'impero, nel rapporto con la signoria vescovile, che a un certo punto si afferma, nel rapporto con Padova. Io ho cercato per questo ed altre situazioni di ricostruire lo stesso dei profili, delle vicende. Certamente occorrerebbero per ogni situazione delle analisi approfondite e specifiche che comprendessero tutto, dal territorio, dalla situazione naturale, ambientale, geografica, paesaggistica, economia, le strutture agrarie, che tanta importanza hanno per le stesse evoluzioni delle strutture territoriali, soprattutto nelle zone di pianura, come in questo caso di bassa pianura, tanto soggette nei secoli dal X al XII anche a grandi trasformazioni che incidono profondamente sull'assetto territoriale, sull'assetto degli stessi distretti pubblici. Ricordiamo solo che la cultis di Sacco è già documentato per l'età longobarda e anche per l'età carolingia, in vari modi e in relazione sempre al regno del fisco. La cultis di Sacco poi, alla fine del secolo IX, è donata da Berengario I al vescovo di Padova, che poi era anche in quell'occasione il suo arcicancelliere. Nel 1055 un diploma di Enrico III ci svela una situazione che era rimasta per ora coperta, dire così. Gli uomini della valle, e probabilmente il termine in questo senso, quindi non è solo un termine geografico, diciamo, ha anche un significato, io credo, almeno parzialmente distrettuale, ricorrono all'imperatore per protestare contro le oppressioni ingiuste che la Chiesa vescovile padovana ha detto loro, esercitava nei loro confronti. Chiedono all'imperatore di essere riconosciuti di poter qualificarsi come Armanni e aggiungono come sono e si chiamano gli Armanni del comitato di Treviso. Ora Sacco, la Sarcisica, preferibile dire non di poi, non apparteneva al territorio padovano, ma apparteneva al comitato di Treviso, anche se dal momento in cui fu donata la chiesa padovana, l'orbita di gravitazione si spostò sempre più verso Padova, fino a essere poi metà comunale, compresa come adesso nel territorio padovano. La documentazione trevigiana è ancora meno, non è molto alta. Tuttavia, sappiamo che in Trevigiano esistevano gruppi numerosi di uomini liberi che potevano essere qualificati Alemanni. Proprio Berengario I, nel 915, concedendo sempre alla Chiesa padovana un ampio privilegio, concede la giurisdizione sugli uomini liberi, in particolare sugli Alemanni, anche questo diploma ben noto e studiato dalla storiografia specifica, che risiedono nella valle solcata dal fiume Solaio. Quindi era una tradizione locale. Ma qui l'imperatore che concede agli abitanti di Sacco di definirsi Alemanni, quindi di poter essere nelle condizioni socio-giuridiche dei nostri tempi, degli Alemanni, specifica anche che essi non possono vendere la loro eremania, Alemannia, a enti e persone potenti, a meno che questi non garantiscano l'assolvimento del debito. È la prima volta che nella terra della Langobardia, per quanto mi consta, avviene l'impiego l'utilizzazione del termine arimania o eremania. Nello stesso anno questo viene impiegato per il Cives di Mantova e pochi anni dopo, 10 anni dopo, per gli uomini che vigevano, altro diploma ben noto e ben utilizzato del resto della vita. Bene, sia per vigevano sia per massa cisica, lasciamo stare Mantova in una situazione tutta speciale, il termine assume o inizia ad assumere una connotazione negativa, in quanto sta a significare un peso, un travaglio, una limitazione. Avere delle limitazioni nella vendita delle proprie terre, sia pur con questa prospettiva pubblica di assolvimento degli obblighi, significa una limitazione in fondo di libertà, che tra i criteri di connotazione della libertà vi è anche quello della libera disponibilità e quindi vendita delle proprie, dei propri possessi. Ora, due decenni dopo, il figlio di Enrico III, che fra l'altro era stato colui che aveva pregato il padre di concedere il diploma ai Saccenses, nel mio diploma del 1079 al vescovo di Padova, concede al vescovo di Padova quel contributo che gli abitanti di Sacco dovevano al regno e che egli chiama come fodro, ma anche come decima. Decima, non mi soffermo più di tanto, io credo sia in relazione non tanto alla decima ecclesiastica, quanto allo sfruttamento di beni incolti, in particolare quella che sporadicamente appare nella documentazione dal secolo IX, anzi, dal Talmovada, con riferimenti indiretti, che siamo a Flexo, che siamo a Solada, da altre zone, probabilmente la decima della che deriva dallo sfruttamento del terreno incolte, che è soprattutto legata al pascolo dei porci, quindi alle scappe. Infatti, nel contributo che in Talamovada e Saccenses dovevano al fisco regio, vi era anche la corresponsione di 50 porci, di qualche mila legati. Il tabacco esce in una esclamazione, dicendo ironia della sorte. Costoro nel 1055 hanno ottenuto la difesa dell'imperatore, ora al figlio dell'imperatore, che poi era stato loro favorevole, vengono definitivamente ceduti, per dire così, al vescovo di Padova. Lo studio delle vicende successive, l'osservazione delle vicende successive, forse può far togliere questo inciso ironico, che è giustificatissimo, anzi, ovvio nelle considerazioni del tabacco, perché che non sembrano affatto finiti in condizioni peggiori gli abitanti di Sacco, ma sono rappresentano e continueranno a rappresentare una comunità molto attiva, molto combattiva, che d'ora in poi si confronterà con la signoria vescovile e direi con successo, almeno da quel che pare mi risulta dallo studio finora condotto della documentazione che sussiste per Sacco. Con documenti abbastanza significativi. Dal 79 poi, a Sacco, nella Saccisica, si svolgono praticamente, abbiamo documentazione abbastanza frequente, 5-6 occasioni, placidi generali. Placidum generale, che è una definizione che tornerà spesso in relazione alle comunità e soprattutto alle comunità nelle quali sono presenti gli arrivati. Ma a tenere placida generale in Sacco, nella Saccisica, è il vescovo, il quale da questo momento in poi, addirittura da pochi mesi dopo aver ricevuto il diploma che definitivamente concedeva la giurisdizione su Sacco pieno senza più ricorso alla protezione imperiale, opera una serie di placidi alla fine del 79 e all'inizio dell'80, dal significato non sempre chiaro, come spesso succede, complesso, nel quale dal quale si evince che si tratta in tutte le volte di una serie di compromessi tra la volontà del vescovo di appunto esercitare la sua piena, non possiamo dire sovrani, chiaramente questi non sono sovrani, sono l'impero di Papa, sono imperatore, il re e il papa possono avere questa qualifica di sovrani, tuttavia una piena, assoluta, totale giurisdizione che in realtà è limitata proprio dalla forza della comunità. Una comunità che già si era mostrata forte in altre occasioni. Nel 1005 i Sarcenses vanno a Venezia e ottengono dal duca veneziano un privilegio loro indirizzato, che riguarda anche il commercio del vino. Così nel trattativo, avvenute prima evidentemente dei Placidi, poi sancite dai Placidi tra vescovo e comunità, due sono gli argomenti fondamentali, temi fondamentali oggetto della trattativa: la disponibilità degli uni e degli altri, cioè dei Sarcenses e del vescovo, ovvero degli abitanti sulla terra del vescovo dell'antica Curtis, chiamata anche al ministero di Curtis, dei beni comuni, e la libertà dei Sarcenses di avere libere appunto le vie di transito, di commercio con Venezia, che si svolgevano proprio nell'entroterra, la Lavanno, attraverso i fiumi minori, prima di o contemporaneamente al grande commercio che si stava sempre più sviluppando sull'Adige e soprattutto sul Po, verso la quale Venezia tendeva, soprattutto il Po, ma ancora non aveva grande disponibilità. Ma di Arimani non si parla più per la Sarcisica. Tutti questi passi di termine Arimani non ricompare più. Solo un documento del 1207, ma io non ho potuto passare per la documentazione inedita del XII e XIII secolo, all'improvviso, in una controversia tra il vescovo e un grosso effettivamente proprietario della zona, in una condizione così di un certo prestigio, ricompare il termine. Colui che contesta certi diritti che il vescovo pretende su lui, sui suoi uomini, sulle sue terre, dichiara a un certo punto di avere diritto, perché concesso in feudo, alle decime o alla parte delle decime della Sarcisica. E esce in una frase rivelatrice, proprio perché è occasionale, come spesso succede: dice, quelle decime che danno gli uomini liberi e che gli arimani della Sarcisica danno. Ora, questa correlazione diretta, immediata, tanto più significativa perché occasionale, quindi al di fuori di qualsiasi intento, diciamo, deviare, dell'arimani della decima, ricorda proprio le disposizioni capitolari, la connessione tra gli uomini liberi, i figli e ecclesi e le decime, che si trovano anche in Lazio, che è dato parecchi anni fa, ma quasi due decenni, proprio lì trovare i Placidi riguardano la Padania, diretta corrispondenza tra gli uomini liberi, ma anche i figli di Ecclesia, e il pagamento, la corresponsione del decimo. Dopo di Arimani non si parla, non ho più trovato testimonianze. Veniamo a un altro episodio, meno noto, ma pur sempre noto la storiografia relativa. Sempre del Padovano, gli Arimani di Pernunia. Qui siamo in una situazione quasi rovesciata rispetto alla Sarcisica. Abbiamo la documentazione del 1055 più significativa di prova imperiale, eccetera. Per Pannonia abbiamo testimonianze solo tra XII e XIII secolo, da atti processuali inediti, ma che erano già stati sfruttati nel 30 dalla Zorzi nella sua opera sulla comunità padovano, e che poi quindi erano entrati attraverso la Zorzi e entrano tuttora in circolazione. Quindi abbiamo potuto esaminare i processi, gli atti, le deposizioni testimoniali relative al processo che si svolgono all'inizio del 200, ove di Arimani si parla spesso, ma l'oggetto del processo non sono gli Arimani. L'oggetto del processo è la controversia che sussiste tra, ne ho accennato ieri in un intervento sulla relazione della professoressa Fasola, tra i signori del luogo, i da Carrara, che da ormai da 40 anni hanno la giurisdizione acquisita per uno scambio, lo ricordavo ieri, quindi danno delle terre in una località, e da questi signori ottengono la giurisdizione su Pernunia, interessante per mostrare appunto il commercio anche della piena giurisdizione, si definiscono comites, ho accennato ieri anche i diritti pieni, l'omicidio, il furto, l'adulterio, eccetera, ricevono tributi vari, ma all'interno del territorio comune vi sono, vorrei dire delle isole comunità, se potesse dire così, un'immunità rispetto alla signoria, ma il termine naturalmente, delle isole di esenzione, eccetera. Fra queste vi sono anche le terre del capitolo dei canonici, dotato a volte di privilegi imperiali, eccetera. La vicenda vede proprio da lungo tempo, perché già nel 62 vi è l'intervento di un giudice imperiale, rector di Padova, siamo nel 62 nel momento in cui Federico I è all'apice della sua potenza, che proprio interviene nei contrasti tra Carrara e il capitolo dei canonici, occasione comitatus. Quindi già il termine di comitatus è entrato anche nei dati pubblici, sia appunto di un giudice imperiale. Sostanza del contendere è ovvio. Capitolo dei canonici dice: gli abitanti e coltivatori delle mie terre non devono recarsi al plastum generale, devono recarsi al plastum ottenuto dall'arciprete o dei suoi rappresentanti. E a Carrara dicono: no, anche gli abitanti delle terre dei canonici devono recarsi al mio plastum. Ma è interessante notare che anche il capitolo dei canonici pretende di avere i diritti maggiori. È una situazione d'altronde non eccezionale, forse non vorrei dirlo parlare, ma presenta nel Traspadana ferrarese, dove il diritto di giurisdizione, in questo caso direi proprio di sovranità, è della Chiesa Romana, e la Chiesa Romana dal tempo di Ottone I aveva sovranità su Ferrara, non solo, il conte della Chiesa Romana ha la piena giurisdizione su tutti quelli che abbiamo detto ieri essere iura comitata. Ma la Chiesa Vescovile di Ferrara, che ha ben 300 coltivatori in 300, pretende e ottiene il riconoscimento di avere anch'essa i diritti maggiori sui propri uomini, quindi due giurisdizioni maggiori in mezzo. Qual era la caratteristica del comitatus dei da Carrara? Oltre, naturalmente, a quel punto abbiamo detto, i testimoni insistono molto sulla convocazione del plascio generale, con i banditori che chiamano, nominano, bandiscono per tre volte il nome Petre, Platum generale, Comitum de Carraria, proprio se tutta la narrazione delle forme cui il Placido viene tenuto. All'interno delle deposizioni più volte si fa riferimento agli animali. Che cosa caratterizza gli animali di Pernugna? Che cosa li distingue dai uomini liberi in generale o da quelli che i testimoni dicono abent all'odio, dagli all'odiere, o da quelli che addirittura emunt all'odio, che pure sono soggetti ai tributi pubblici, quindi mostrando anche la possibilità di inserimento di nuove persone. Sono anch'essi all'odiere, chiaramente, liberi uomini che possiedono, ma hanno due, forse, connotazioni principali. Sono legati in maniera specifica al plastum generale, per il quale devono preparare per i signori il receptum, anche un'antica tradizione carolingia. E per questo recetto, in particolare, soprattutto, devono provvedere della legna per i due placidi generali di Maggio e di San Martino di Novembre. E in legna da loro procurata per i signori, due o tre carri di legna per giorno, viene solo da loro, raccolta nei boschi comuni, definiti anche la Gallia, sui quali hanno diritto sia i signori sia il comune di Pernugna. Quindi, insomma, che io direi che non c'è una sostanziale differenza, se non una differenza di così di tradizione, di legame con il potere pubblico, che in questo caso è il potere signorale pubblico. Plastico in generale, recepto, utilizzazione, sfruttamento sotto la sorveglianza signorile dei nemora comunia, chiamati anche regali. D'altronde così erano chiamati anche nel bresciano, quando si diceva i boschi sono tenuti per imperatore. Io poi prendo un esame, una subregione, la Scolosia della Bassa Padovana, così chiamata perché è una derivazione volgare di Scutasci. Sulla Scolosia avevano giurisdizione gli estensi, ereditata ancora dal Medico, dai Marchesi di Toscana, dagli Albertini, eccetera. Ora, nella scolosia, così vicina e a Perugia, non ci sono rimanenti. Nonostante gli estensi conoscessero benissimo la tradizione rinanica, ma ci sono comunità rurali che hanno il proprio castello, fanno capo a un castello principale, quello di Montagnana, Caput, Scolosi, e sono, soprattutto da un documento pubblicato recentemente, qualche anno fa, da Portolani, nei singoli villaggi urbana, appunto riguardava urbana, uno dei villaggi che fanno capo, che sono della Scolosi, e fanno capo al castello di Montagnana, ci sono dei gruppi di milites che si consorziano fra di loro e costituiscono quasi un comune, o addirittura in certi momenti sembrano essere il comune. Questa situazione si ritrova anche nei domini canossiani in alcune zone particolarmente importanti. L'esempio più noto è quello di Bastate, nei patti tra la Badessa e San Sisto, di Piacenza, ma la situazione canossiana, chiaramente, del 102-1116, gli abitanti qui chiaramente sono divisi in tre gruppi distinti: in curiales o milites, con feudo, tenuti a servire a cavallo, eccetera, eccetera, in burgenses, abitanti del castello con diritti economici, di transito, di pratica, eccetera, e in ustici. Così la situazione, seppur meno chiara e meno complessa, si presenta in qualche altro centro importante dominato dal Canossa, a Ciarello, nella Bassa Veronese. A Nogara non ci sono rimanenti. Io qui avanzo un'ipotesi, riferimento di altra documentazione inedita, mi diceva l'amico Andena, che anche nel Bresciano esistono documentazioni che non conosco, inedita, quindi siamo nell'ambito di una tipologia che è basata su fonti edite inedite, ma che può essere corretta ovviamente da altre fonti inedite, che sono assai numerose, decine di migliaia di documenti del XII e XIII secolo dell'Italia, solo dell'Italia settentrionale. Però nei domini di Canossa esistono località nei quali appaiono gli arimanni. Canossa, la Matilde stessa, difende i suoi arimanni a Montecchio, nel Reggiano, contro la signoria del vescovo Parmense. Così nel traspadale ferrarese, perché Canossa ha dominato per un secolo, ci sono gli arimanni. Come mai allora negli stessi domini canossiani abbiamo zone senza rimanenti e con rimanenti? Io credo che la strutturazione, lo strutturarsi complesso attraverso la formazione di un gruppo di milites, non semplici vassalli rurali in qualche maniera detentori di qualche piccolo beneficio, esistono dappertutto, ma milites dotati di giurisdizione minore sui propri uomini, tenuti particolarmente a un impegno attivo, offensivo direi, di carattere militare. Pensiamo a Bastardo, pensiamo a Nogara, la difesa contro la sede del Popolato, eccetera. A Cerea, per esempio, questo gruppo di sei famiglie di milites del XII secolo, poi sfocia, almeno parte di costoro, sfocia in un rubamento e in una situazione anche di certo prestigio nell'ambito della città, quindi sono zone, non ci sia spazio per mantenere la tradizione animale. Invece si mantiene come la strutturazione, lo strutturarsi. Socio, così è forse più semplice e più aderente al passato. La seconda parte, credo che dovrò tagliare in maniera drastica, concerne Mantova. Io, col consenso del presidente di seduta, qui rinvio a quanto mi è caduto di scrivere 8 anni or sono. Nel convegno di Mantova, sui cibi e rimandi di Mantova, o partendo per Mantova e Ferrara dall'analisi dei due capitoli del libro del re del tabacco, proprio studiando le vicende in maniera singola e specifica, ero arrivato poi a conclusioni, so che il tabacco stesso l'ha approvato, leggermente diverse da quelle del tabacco, che si presentava in maniera analogica, mostrando che il caso di Mantova e Ferrara sono due casi sostanzialmente diversi. Diverse quasi per paradosso. Perché a Ferrara viene una situazione, si verifica una situazione che per influenza evidentemente della Lombardia, di Canossa, eccetera, tanti altri aspetti su cui non mi soffermo, riflette in qualche modo la situazione della Lombardia. A rimanere sono rustici del contare, i cittadini si avvalgono di tutti gli strumenti, compresi i famosissimi falsi ferraresi, per mostrare già negli anni 30, 40 del XII secolo che il comune di Ferrara, costituito ormai in 2-3 decenni, deve avere la giurisdizione sugli arrivanti, che i conti pontifici che esercitano la giurisdizione sugli arrivanti devono sottostare alle regole del comune, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi anticipando quasi quella che è la politica poi dei comuni cittadini della Lombardia. E direi che, riferendomi anche un po' all'osservazione del Fasolo, con interessantissimi documenti ieri del 1162, quelle belle frasi che ha aperto la sua relazione, interessantissime, direi che proprio Ferrara, una città minore, una città recente, una città che è sempre per secoli ha dovuto conquistarsi sul ruolo di città, perché è una delle poche città medievali, non ha tradizioni antiche, è nata da una massa, quindi è nata in una situazione proprio ben lunga dall'essere urbana, proprio in questa ansia, vorrei dire, di questo bisogno di assurgere a nuovo e a rivendicare per le altre città, è una tradizione, è ormai una consuetudine, pensiamo al libro di Bordone sulla società cittadina XI, XII secolo, consuetudine urbane, quelle che ogni città della Langobardia ha come consuetudine, diploma imperiale a Mantova, lo dicono chiaramente, accentua in maniera precoce, veramente, un controllo ferreo sul contado, dove può. E abbiamo qualche episodio ben chiaro della seconda, della prima metà del XII secolo. Ferrara arriva allo Stiglio, la sottrae per un certo periodo di tempo a Verona, indebitamente, perché era veronese. Prima cosa che i consoli ferraresi fanno è quello di far sì che tutta ostilità vada verso Ferrara. Devono portare i figli a Ferrara, devono fare le opere pubbliche a Ferrara, devono scavare le fosse a Ferrara, devono fare le mura a Ferrara, devono ricevere il crisma dal vescovo di Ferrara e non più dal vescovo di Ferrara. Quindi tutto si chiede, diciamo, per cercare di sottrarre ostilità a Verona. Così agiscono nella trasparente ferrarese e in altre località. Mantova è diversa. Mantova abbiamo veramente l'unico caso in cui gli arrivanti sono cittadini. Se si tolgono i documenti lucchesi delle prime decenni del IX secolo, anche questi ben noti, si parla di arrivanti in città, uomini, buoni homies che assistono, Franci e Langobardi, se ricordo, che assistono ai placiti dell'800, secondo, terzo decennio del secolo, laici chierici, sono chiamati così. Poi, per quanto mi riguarda la schedatura della documentazione arimandica, certamente tutta quella già utilizzata dalla storiografia e qualche altra non è aggiunta qua e là, arimani in città non ci sono più. Gli arimani sono nelle campagne, gli arimani sono nei villaggi, eccetera, non nella città. Come mai allora Mantova ha questa situazione particolare? Che totalmente non trova ascolto da nessun'altra parte, non mi pare che nessuno fenomeno abbia trovato questo. E qui bisogna vedere, come già intuibile, la storia di Mantova. Perché Mantova ha una vicenda complessa fin dal primo momento in cui gli arimani appaiono, Enrico II di Prova nel 1014, Mantova tende a liberarsi o a limitare la signoria, vorrei dire l'oppressione, dei Canossi. I Canossi sono signori, conti di Mantova e di Ferrara, le uniche due città che i Canossi hanno controllato. Non hanno controllato Reggio, non hanno controllato Modena, non hanno controllato Brescia, non sono tantomeno mai arrivati, nonostante qualcuno lo dica, però no, in altre zone, solo Mantova e Ferrara. Infatti Enrico III, nel 1055, tra due di nuove le città, Mantova e Ferrara. Ed è proprio con i diplomi imperiali che inizia la storia degli arimani di Mantova. Il diploma imperiale del 1014 in poi che arrivano fino a Federico I. Arimani in quanto devono difendere i propri beni comuni, devono difendere la loro arimania, in senso positivo, stavolta intesa come complesso di beni e diritti relativi, devono difendere i beni comuni presso la città e nel contado. Li difendono talmente bene che nel giro di pochi decenni gli abitanti del contado perdono i diritti e i beni comuni. Quindi quegli arimani che erano della città e gli erano del contado diventano solo poi gli arimani della città, perché gli arimani erano connessi in maniera indissolubile anche i beni comuni, anche i utenti collettivi, che i cittadini mattovani sono sempre più propri, e ci sono documenti chiari che mostrano la sottrazione dei beni comuni agli abitanti del contado, i quali non si chiameranno più arimanti. Scompare dagli abitanti del contado la qualifica di arimanti. È proprio il processo contrario a quello generale della Lombardia, nonché anche in certe zone della Romagna. Ma c'è di più. La comparsa del comune mantovano con i suoi consoli nel 1126 è legata agli arimanti, proprio perché si tratta di una controversia con il monastero di San Benedetto di Bolione, condato della Rossa, tra i cimes mantovani pro comune e il monastero, e sono protagonisti i cimes arimanti, in quanto appunto si tratta di zone presenti di non mi sapevo più di tanto e vado rapidamente. In qualche maniera anche della terza parte del trattato, me la perdonerete, che vi sollevo dalle fatiche. Quindi anche della Romagna, anticipando un po' confusamente, ho trattato. Quarta parte, uomini liberi, tradizione romanica, conti, signori, comuni cittadini. È abbastanza. Anche io ancora una volta ricorro al territorio veronese per un anno. Qui, per considerare le vicende dei gruppi di uomini liberi, sussiste, anch'esso ampiamente noto, utilizzato anche nelle cosiddette storie generali del Medioevo, sussiste un esempio famoso, quello del Bove di Lazise. Il diploma del 1983, ottobre secondo, felice da Perigli, concesse su richiesta di un gruppo di 18 uomini di Lazise, di un prete, instaurando un collegamento diretto tra questo gruppo di uomini liberi e l'impero, un collegamento che sarà ribadito da Enrico IV nel 1077, sarà ribadito poi da Federico I fino al 1804 IV, naturalmente con un valore sempre inferiore rispetto alla realtà, ma a significare costante rapporto che l'uomo di Lazise in condizioni difficili, nel momento in cui era possibile e valeva la pena di farlo, ricorrono all'impero perfino ancora nel 1104, quando Federico I si trova a passare per Verona e si tentano l'ultima carta di ricorso all'impero, che non poco non si vedrà più nulla, perché nel 1193 Enrico VI ucciderà tutta la regione del Cardense dietro 1100 marchi d'argento, insomma considerevolissima, al comune di Verona. Ora, e mi riferisco ancora all'osservazione della banca che tratta ampiamente in alcune pagine delle vicende degli uomini di Lazise, riferendosi agli uomini imperiali, e il tabacco mostra come questi liberi uomini avrebbero potuto chiamarsi tranquillamente arrivati, perché erano nella condizione che solitamente è degli arrivati, e che essi non siano ricorsi all'uso del termine arrivano, perché quello che stavano concludendo con l'impero era un atto di natura schiettamente politica. Esiste la possibilità di confronto con altre vicende di comunità rurali vicine nello spazio agli uomini, alla comunità di Lazise. E mi riferisco alle vicende dei liberi uomini di Mastrengo e di una località non dico scomparsa della Marco Vicenda. Anche qui vi è un gruppo di liberi uomini, due decine di liberi uomini, che possiedono terre ovviamente nel castello di Mastrengo di Monticoli, abitanti presso il castello di villaggio vicino. Ebbene, qui la vicenda è inversa. Per loro iniziativa, attraverso donazione o vendita, questi uomini cedono le loro terre al castello, che se ormai evidentemente non abitano più, o per motivi vari, non credo sussistano, le cedono o al monastero o una famiglia comitale. Naturalmente cedendo le loro terre se non cedono alcun diritto, perché non possono cedere alcun diritto, in quanto soggiacevano alla giurisdizione del monastero. Ma nel momento in cui le terre del castello passano al monastero o alla famiglia comitale, questi esercitano attraverso la proprietà del castello il diritto di giurisdizione. E poiché alla fine anche dalla famiglia comitale si passa alla signoria monastica, che è sempre San Zeno, questo nel 1084 si fa riconoscere dall'imperatore la proprietà dei due castelli con i diritti signorili, plasmus, reus et epocitis. Per cui si forma, si viene proprio a seguire la formazione attraverso queste vie private, diciamo, di una signoria che si instaura su un gruppo di uomini liberi che evidentemente avevano costruito loro stessi i castelli nei quali possedevano per le esigenze di difesa locale sotto la protezione e la giurisdizione degli ufficiali pubblici. Bene, anche costoro non ricorrono mai la nozione alemannica alla qualifica di Alemanno. Io credo, dirò e lo ripeterò, il ricorso alla qualifica di Alemanno avviene in momenti specifici, cercherò di dirlo poi nelle conclusioni, ma che la qualifica dovrebbe essere molto più diffusa di quanto la nostra documentazione ci permette di accertare, proprio perché essa compare in momenti specifici che in qualche modo io credo possono essere posti in categoria. La vera crisi della tradizione alemannica, la decadenza e la scomparsa, avviene con la politica del comune cittadino. Ho già accennato alla politica di Ferrari, che particolarmente significativa per precoce. Si serve la politica di Alemanni per ribadire l'associazione dei russici. Addirittura, per non aver dubbi, mostra che gli Alemanni già nel X secolo, attraverso privilegi pontifici, erano stati assoggettati alla massa maior, cioè la massa di Ferrara, che sarebbe poi il comune di Ferrara, un'operazione complessa, difficile, eccetera, ma che ben mostra l'intento politico. Di controllo politico del territorio, ma non dimentichiamo, anche qui vado veloce, l'aspetto fiscale. È presente in questo come presente nelle famose carte di liberazione generali dei rustici, mi riferisco a Vercelli e a Firenze, o addirittura la carta di liberazione dei Servi, il famoso Paradisus, dove studi di Vigna ha dimostrato la finalità è soprattutto estendere la popolazione tassabile del contado, perché altrimenti una delle finalità principali è proprio questa. Quindi politica sì, ma anche esigenze fiscali dei comuni cittadini. Proprio le vicende anche di alcune comunità in cui esistono gli animali, in cui esistono i fabbri, mostrano che a un certo punto non c'è distinzione tra di loro di fronte al comune cittadino, perché i giudici del comune cittadino accettano il possesso, la quantità del possesso, la libertà di vendere, il fatto di sostenere oneri pubblici, e allora poi non interessa più nulla che si chiamino o non si chiamino animali. Nella Langobardia come nella Romagna, tranne qualche residuo, si trova dallo Schneider in poi la citazione relative, a parte alcune zone centriche come Friuli o anche il Trentino, Alemanni e Alemannie vanno scomparendo. Quindi, concludendo, possiamo raggruppare la documentazione nella quale appaiono gli Alemanni, che pure è validissima, con un certo sforzo possiamo raggrupparla per tipologia. Innanzitutto, la documentazione pubblica, quella costituita dai placidi già dal IX secolo in poi, che testimonia la difesa degli Alemanni, l'accoglimento spesso delle loro proteste. C'è quel famoso placido pubblicato da Volpini dopo gli studi del tabacco del 132, di quegli uomini che dicono noi siamo liberi, omnes, che esercitales, Alemanni. E beh, tra volte ribadiscono in modi diversi la loro condizione di uomini liberi, più di così non potevano fare, a testimoniare come era diffusa tra la popolazione questa tradizione alemanna. Tra il 9 e il 10 secolo la situazione cambia, e il re si fa promotore della decadenza più volte degli alemanni, anche se con qualche sussulto, pensiamo a Sacco, quando c'è un tentativo di protezione, o a Vicevano o in altre occasioni. In Romagna invece, non ho trattato, ma lo affermo, ne ho trattato ampiamente nel passato, sono i conti che la metà del X secolo, per funzionare, quando cominciano a arrivare in Romagna, devono inventarsi, scusate tra virgolette, degli uomini soggetti al loro districtus. E poiché gran parte degli uomini liberi della Romagna coltivavano o avevano terre della chiesa ravennate delle altre chiese, dei monasteri, soprattutto della chiesa ravennata delle chiese vescovili, grandi monasteri non ci sono in Romagna, Bobbio, Nolandola, eccetera, e cercano di far gravare gli oneri pubblici sui liberi. Ma quelli sono coloni liberi nella tradizione della Romagna, che sono ben diversi da quelli della tradizione della Langobardia. Buon gioco ha appena avvertito del pericolo, ed era dal titolo Arcivescovo di Ravenna, un documento del 1956, l'Arcivescovo di Ravenna a rifiutare totalmente la qualifica del rimando. Questo è un solo problema. Sono liberi che abitano sulle vie terre e a te, Conte, non debbono nulla, non sono tuoi arrivati, sono miei uomini liberi. E rifiuta completamente il termine arrivando. E così altri, nell'Imolese, nel Cimenate, eccetera, nel Pesarese, i conti tentano di definire le colonie libere rimandi e sono regolarmente respinti nei loro tentativi. È interessante notare come la tradizione rimandica, con tutti gli obblighi pubblici che ormai è in crisi nel regno longobardo, viene, per così dire, perfezionata e rattivata nella terra di importazione, come spesso succede per altri aspetti. Con il XII secolo, tra XI e XII, la documentazione diventa assai più vasta, più difficilmente reperibile, quasi tutta inedita, o larga parte inedita per certe zone. Solo il Piemonte ha la fortuna di avere la biblioteca suppletiva nella stare parte, ma il Piemonte gli animali quasi non ci sono, e diventa una storia frazionata, una storia locale. Tuttavia, io credo, attraverso la considerazione dei vari episodi, delle varie vicende, di poter anche qui suggerire alcuni criteri interpretativi. Innanzitutto viene mantenuto il rapporto della rimanno con il potere pubblico, innanzitutto con quello comitato. Cito gli esempi solo. Bergamo, 1086, documento inedito, il conte riceve l'ossequio dagli arrimanni. 1114, Matilde protegge gli arrimanni suoi nel Reggiano. 1142, la controversia tra gli abitanti di Mendrisio per il pagamento del foto regale al conte da parte, sostengono loro, degli arrimanni. Concessione della giurisdizione sugli arrimanni ai conti di Biandrate. Ancora un documento in merito non noto, nel 1200, anno 1200, i conti vicentini riscuotono dai loro e propri arrimanni tributi in schia. Rapporto mantenuto dell'arrimanno con il potere signorile che si attenge a forme di tradizioni pubbliche più o meno schiette. Citiamo gli arrimanni propri, suoi, della Cipreda, della Zana, Manzana, eccetera. Gli arrimanni di San Zeno in tante località. Gli arrimanni propri, nostri, suoi, dei conti signori di Carrara. Gli arrimanni del comitato cosiddetto di Sacisica, che pagano le leggi, eccetera. Il rapporto fra rimanni e conti nella Romagna è chiarissimo. Per cui io ritengo che la tradizione rimanica, come accennato prima, fosse assai sentita e assai più diffusa nelle comunità rurali e avvertita come, e ci sono esempi fin dal nuovo secolo, Bellagio per esempio, come una qualifica e una distinzione nobilitante. I nobiles arrimani abitatores di Bellagio della fine del nostro. E che il ricorso ad essa, e quindi l'emergere della qualifica nella documentazione, avvengono solo nei momenti in cui se ne avverte il bisogno, in occasione e per motivazioni molteplici, questo fino all'inizio del XIII secolo. E che queste, all'interno delle strutture simili, ciò appare soprattutto nei ruoli svolti dagli arrimanni, nel plastum generale e negli obblighi di recente. Ricordiamo poi gli obblighi e i diritti e doveri connessi con la disponibilità e lo sfruttamento dei beni comuni, dei membri comuni. Con il XII e XIII secolo la situazione, dicevo prima, cambia. La signoria entra in crisi. Quando esiste, ormai da tempo, io sono convinto che prima del riconoscimento giuridico il comune cittadino controlla politicamente gran parte delle signorie, diversa situazione di città a città, in certe città contato e controllato totalmente, in certe no. Ma nel momento in cui la signoria soggiace, per così dire, al tribunale d'appello dei consoli o di giudice del potestà cittadino, tutto questo, il suo esercizio della signoria, delle forme che è ereditato dalla tradizione carolingia, post-carolingia, il plastum generale o dal mando, il receptum, eccetera, eccetera, viene a cadere. Il comune manda i suoi ufficiali. Anche nelle signorie che resistono, vi sono spesso potestà cittadini, che quali seguono altre finalità, altre logiche, altre forme di amministrazione della giustizia, che nei casi un po' più gravi finisce sempre nei tribunali cittadini. Gli abitanti del contado capiscono questo e ricorrono ai tribunali cittadini nell'ultima parte del secolo XII, addirittura affermando di essere arrivandosi imperatoris. Ma da una parte i signori hanno un buon gioco nel mostrare che così non è. Dall'altra, il comune, per quanto riconosca i diritti degli uni e degli altri, non ha nessun interesse a mantenere questa linea o a provare questa linea di condotta, non ha nessun interesse, per quel che mi consta, a mantenere questa tradizione, questa diciamo così, qualifica che viene dal passato e che è presente nelle comunità rurali. I suoi interessi, non c'è non prima, sono diversi, sono politici e fiscali. Sono controllo da un certo punto diretto, quando può, delle comunità rurali, dei propri ufficiali. I criteri di accertamento della libertà, come accennavo prima, sono diversi, e si sono in relazione agli obblighi pubblici e all'estimo. Un estimo che si diffonde nei comuni rurali ben presto, abbiamo testimonianze già nell'ultima parte del XIII secolo, e si diffonde l'estimo per libera, quindi basato sulla disponibilità, non importa che titolo della proprietà, sul fatto che il comune deve pagare tanto, poi si arrangerà il comune, distribuire all'interno attraverso i propri ufficiali, e quantificando famiglia per famiglia il carico fiscale. Scomparendo quindi questa tradizione, così diciamo corrotta, carolingia, post-carolingia, tenuta in piedi le strutture pubbliche all'esilio, ma soprattutto alle signorie, che le strutture pubbliche si ispirano o tentano di riprendere la protezione pubblica, con questo nuovo mondo anche il mondo degli animali non ha più ragione di sussistere e si avvia alla fine tramite qualche storia. Grazie, veramente so quanto è difficoltoso. Wir danken Herrn Castaglietti für diese wunderbaren Ausführungen. Ich möchte in diesem Fall, wo mir diese Vorstellungen aus früheren Arbeiten besonders nahestehen, gerne die Zusammenfassung machen. Frau Monika Pils hat sich sehr eingesetzt und diesen Dienst uns hier erwiesen. Es sollte eigentlich auch etwas mehr Schultern verteilt werden und alle Dossis, die sind also aufgerufen, wenn sie Lust haben, eine Übersetzung zu übernehmen. Das ist nicht eine professionelle Sache, sondern das macht hier jeder, der das gerade, der diese Möglichkeit hat. Ich darf ein bisschen weiter ausgreifen, weil ich mich selber mit diesem Problem beschäftigt habe. Die Frage der Erbemannen hat auch eine sehr große Tradition in der deutschen Historiografie. Ich nenne etwa den Namen von Fido Schneider, Reichsverwaltung Toskana, Landgemeinde, ist aber durch eine Studie von Tabacco, dell'anno non mi ricordo, 76 auf eine neue Ebene behoben worden, von der Herr Castaglietti ausgeht und in mehreren Forschungen dieses Problem schon weitergeführt hat. Sie haben verstanden, dass er sich teils auf die sehr alten und oft diskutierten Dokumente stützt, teils aber auch noch nicht edierte, die in großer Zahl immer noch in den Archiven ruhen und auch zur Frage der Arimanen etwas sagen. Es ging also um diese Gruppen, die sich Arimannen nennen. Sie wissen vielleicht, dass der Name von dem langobardischen Ehemann kommt und schon in der langobardischen Gesetzgebung exercitalis bedeutet, also genau die Übersetzung von Ehemanner, Arimannus ist dieses selbe germanische Wort, Ehemanne, und bedeutet also in der langobardischen Zeit den freien Krieger. Wir haben aber dann eine Unterbrechung der Dokumentation und erst in spätkarolingischer Zeit wird dieses Wort wieder aufgenommen und dann, wie Sie gesehen haben, bis zum Anfang des 13. Jahrhunderts in den Dokumenten weitergeführt mit einem gewissen Schwerpunkt im 10., 11. und auch noch im 12. Jahrhundert. Herr Castagnetti hat die Beziehungen zwischen Arimanen, dem Königtum, den örtlichen Herren, den Grafen, den Markgrafen und vor allen Dingen dann in der Phase des 12. und 13. Jahrhunderts mit den Kommunen untersucht und immer wieder im Blick. Der erste Teil galt den Territorien von Verona, Padua, Treviso und den Herrschaften der Canossa und Este. Das war der ausführlichste Teil mit der Überprüfung von sehr vielen Dokumenten, die ich hier natürlich nicht produzieren kann. Der zweite Teil, die Arimanten von Mantua, ein Sonderfall. Die Ausführungen über die Romagna hat Herr Castagnetti dann stark abgekürzt. Und zum Schluss in einem vierten Teil noch einmal kurz das Verhältnis von freien Arimanen, Herren und Kommunen reflektiert. Der erste längere Teil also über die Langobardia, die Lombardei, mit besonderer Betonung von Verona. Ich will jetzt also nicht die einzelnen Dokumente durchgehen, die hier überprüft worden sind. Sie haben da die lateinischen Wendungen auch mitbekommen, sondern versuchen, das Wichtigste herauszuheben, auch um nicht zu viel Zeit in Anspruch zu nehmen. Wir treffen also hier wie anderswo einmal den Begriff Arimani, die Personen bezeichnet, und zwar immer in Gruppen. Gruppen von Personen, und zwar ist auch das Beispiel Mantua ländliche Bevölkerungsgruppen. Der zweite wichtige Begriff ist Arimania, und der bezeichnet eine Abgabe. Er steht an erster Stelle ja von dem berühmten Gesetz von Roncalia und wird hier etwas weniger herangezogen, eigentlich mehr um die Gruppe von Arimanen auch feststellen zu können, denn Arimania ist natürlich eine Abgabe der Arimanen. Es werden also erwähnt weiterhin Terra Arimanorum, die auch Comunia sind und auch Waldgebiete betreffen, von denen dann später Holzabgaben und so etwas zu leisten ist. Also Exercitalis, die immer wieder erwähnt wird, mit der öffentlichen Gewalt in Verbindung stehen, offenbar seit alter Zeit. Und die Kaiser, die deutschen Kaiser, kommen nach Italien, nehmen diese Verbindungen wieder auf und erteilen den Arimanen immer wieder Privilegien, wo dabei deutlich wird, dass diese Verbindung zur öffentlichen Gewalt, der ursprünglich Freien, nicht abreißt, auch wenn sich Zwischengewalten dazwischen lagern, also nicht nur die gräfliche Gewalt, die ja von der Jurisdiktion abhängt, sondern auch Herren, wie vor allen Dingen Klöster, die solche Arimanengruppen und ihre Gebiete, ihre ländlichen Gebiete unter ihre Herrschaft bringen, dann auch die Jurisdiktion für die Arimanen ausüben, aber auch die Abgaben einziehen. Das Eigenartige ist, dass der Begriff der Arimanen teils als eine positive Rechtsstellung verteidigt wird, sowohl indem man wünscht, die Bestätigung vom Kaiser zu bekommen, wie auch in vielen Prozessen auch mit den Klöstern und Äbten, den Kanonikern, indem die Arimanen darauf Wert legen, dass sie eine besondere Stellung bekommen, indem immer wieder Arimani und Homini Liberi gleichgesetzt wird. Auf der anderen Seite kann es auch eine negative Bedeutung haben, indem eben aus dieser Abgabe eine Belastung wird, gegen die die Alemannen sich noch wehren. Etwas Wichtiges, die Gerichtsbarkeit spielt ja in unserer Diskussion eine große Rolle, dass die Alemannen auch immer mit dem Placitum Generale, also der alten Gerichtsversammlung, in Verbindung gebracht werden, deren Rechte eben dann vom König auf verschiedene Herrschaftsträger übergehen. Insofern ist also die Geschichte der Alemannen mit der Delegation von Herrschaftsrechten verbunden. Interessant, dass diese Gruppe von Alemannen Policella und sogar ein Privileg bekommt für den Weinhandel mit Venedig, der ihnen dann auch die Wege, ein Wegerecht gibt, um dort die Waren nach Venedig zu bringen. Ja, ich glaube, hier habe ich vieles schon gesagt. In Mantua ist der Fall dann ganz anders. Dort werden Sives und Arimani schon in der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts gleichgesetzt. Ganz anders als in Ferrara, ein Sonderfall, den Professor Fasola ja auch erwähnt hat. Und hier ist auch das Gemeinschaftseigentum, die Comunia, eine wichtige Sache. Und hier hat auf diese Weise der Begriff der Arimannen, der eben mit den Stadtbürgern gleichgesetzt wird, eine Funktion in der Übernahme des Territoriums durch die Stadt. Und zwar hier läuft das über den Begriff der Arimannen, während sonst die Arimannen eine ländliche Bevölkerung, die von den Cives, den Stadtbürgern, unterschieden ist, bleibt. Also hier ein Ausnahmefall, der sehr interessant ist und auch viele Diskussionen schon hervorgerufen hat. Das Wichtige ist, angesichts dieser dauernden Stellungen der Alemannen, ihrer Verbindung zu Gemeinschaftsland, zu Comunia, ihrer Freiheit und ihrer Unterstellung dann doch unter lokale Gewalten, vor allen Dingen aber Klöster, dass ein Einschnitt geschieht mit der Bildung der Stadtkommune. Die Kommune begründet ihre Rechte auf ganz andere Weise. Sie erwirbt die Rechte im Contado auf dem Lande. Sie kontrolliert, wie Professor Castagnetti ausgeführt hat, schon vorher über die örtlichen Signori wohl das Land, bevor sie wirklich die Herrschaft im Contado erreicht. Und hier versuchen die Arimannen noch einmal am Ende des 12. Jahrhunderts um 1200 ihre alte Stellung zu verteidigen. Aber der Begriff der Arimanni, der Arimania, die ja eben mit der öffentlichen Gewalt, mit dem Königtum, mit dem Placitum Generale verbunden war, hat jetzt keine Rechtsbedeutung mehr, wenigstens keine so starke, dass die Arimannen ihre Stellung bewahren könnten. In der Herrschaft der Kommune über den Contado geht also diese Stellung der Arimannen in der Wende vom 12. zum 13. Jahrhundert unter. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch des Unterschiedes der deutschen und italienischen Geschichte. Hier zeigt sich, dass einerseits, ich meine, die alte Freiheit eine sehr viel längere Geschichte hat gegen den Vorgang der Verherrschaftlichung, während andererseits mit der Stadtkommune ein ganz neuer Verfassungskörper sich hineinschiebt in die Verfassungsstellung und damit diese ländlichen Gemeinden, unter denen die Alemannen eine ganz besondere und außerordentlich weit verbreitete Stellung haben, untergehen und eine neue Periode des Verhältnisses von öffentlicher Gewalt bzw. Kommune zur ländlichen Bevölkerung beginnt. Interpretativa fedele. compilato una relazione del professor Castagnetti, il quale ha trattato in generale del problema degli Alemanni dopo l'età longobarda, specialmente dalla fine del X secolo in poi. E gli si ha spiegato, mi ha spiegato finalmente appieno perché Federico Barbarossa nella seconda dieta di Roncaglia in testa Iura Regalia che rivendicava indica per rimanere e ci ha spiegato il significato di questo perché ci ha illustrato una lunga tradizione dell'affermazione della immediata dipendenza degli animali da re, dall'imperatore, che funziona in doppio senso, funziona nel senso che i re e gli imperatori pretendono di conservare questa loro immediata autorità nei riguardi degli animali e nel senso che gli animali rivendono la loro immediatezza rispetto al sovrano, al re. Problema che si pone quando si inizia quel processo, non dico la inizia la signoria territoriale, quel processo che porterà entro un secolo all'inizio della signoria territoriale. E gli animali appaiono a questo proposito in diversa opposta condizione, appaiono in quanto ricevono la protezione, la conferma della propria indipendenza, cioè il rapporto diretto re e quindi la negazione di qualsiasi rapporto con un signore del territorio che va diventando signore del territorio in quanto pretende di estendere la signoria anche sulle proprietà degli animali, quindi intervengo, il nome salta fuori perché il re interviene a proteggere gli animali o perché al contrario interviene a concedere a un signore l'autorizzazione a inglobare la sua signoria anche gli animali. E poi, sempre a proposito di questo problema, il nome salta fuori delle varie controversie e a questo proposito si determina fin quando il comune l'avrà detto. È significativo che l'appello alla figura regalia, alla rimania come diritto regno, continui ben oltre la dieta di Roncaglia, ben oltre la pace e costanza, quando questo è possibile, perché interessa. E con questo problema, con questa figura di animali, io credo che Castagnetti ha cresciuto di molto le testimonianze note di Arimani e ci ha fatto intravedere che è possibile che esse siano ancora cresciute di numero con lo sfruttamento del limento. Ma tuttavia io penso sono citazioni di ignoranza. Io ho sempre tenuto presente la raccomandazione del collega e amico Leopoldo Civico di Lovania, il quale afferma che quando una cosa è sempre presente, frequentemente presente, non viene nominata le fonti. E che quando comincia a essere invece nominate le fonti è perché questa cosa è diventata piuttosto rara. Io credo che cominciano gli arimani essere rammentati come arimani quando essi non sono più così numerosi come erano nell'età longobarda e nella prima età. e il problema degli animali in particolare, sollevato da Castagnetti così bene il posto, rientra in un altro problema più grande che riguarda l'esperienza territoriale, la presenza, l'assoggettamento di uomini liberi, originariamente liberi e che rimangono sempre liberi e che rimangono proprietari delle proprie terre nell'ambito della signoria. Quindi noi dobbiamo abbandonare l'idea che fanno tra i dipendenti della signoria che sono soltanto servi o schiavi, servi in condizioni minore, migliore o peggiore, ma sono anche dei uomini liberi. Ci sono in una posizione particolare, che è sempre una posizione di privilegio, anche se viene ritenuta una posizione ingiusta con la quale avanzare le indicazioni. E questo complica molto la missione della teoria, della signoria. Ma comunque è una conferma che ci sono all'interno della signoria, nell'ambito della signoria, assoggettata al Signore, un certo numero di liberi hanno dei che liberi rimangono e che quindi la signoria non è più, si può più considerare la fondiaria, perché va anche ben al di là della signoria fondiaria. Questo poi il problema delle condizioni sociali dei dipendenti signori. Questo ci ha permesso di prevaricare e approfittare della mia posizione conduttore in questo momento per sottolineare l'importanza, gli interessi di sviluppo della relazione del professor Castagnetti. Proprio a proposito del nostro tema, io apro la discussione sulla relazione del professor Castagnetti. Prego. Il microfono, bisogna anche aprirlo, proprio a parlare. Non vediamo bene le mani che si alzano. Per favore, chi vuole parlare, si segnali anche la voce. Molto vicino alla bocca. Io anch'io ho ammirato veramente la splendida relazione. Qui tra le mille domande che vorrei fare, tra le mille osservazioni, diventa una che concerne la presenza degli animali nelle città. Lei ha detto giustamente che dopo il famoso documento lucchese del principio del IX secolo, Mantova è rimasta un po' l'eccezione nella documentazione, e così in effetti. Sono però, ci sono alcuni casi, tutti riferiti al XI secolo, in cui gli animali cittadini si ha più traccia nelle fonti e che vorrei permettermi di ricordare per questi problemi non cadano nel dimenticatoio. Il più importante è quello della rimania degli inclosi alle porte di Milano, che fu già oggetto di una famosa studio di Cognetti. E per quanto sia un caso interessante, perché questi inclosi sono probabilmente animali, sono bensì scritti nella matricola di Antonio Visconti alla fine del XIV secolo, ma non risulta che fossero né capitani né vassoi del primo comune. E il capo della famiglia Microzzi aveva a titolo di fede commesso qualcosa del genere, potere di gestione e amministrazione su beni che apparentemente, questo è un'ipotesi, dovevano essere di origine fiscale o comunque si trovavano nel suburbio milanese e formavano beni di pertinenza della comunità. Sempre il tema di suburbio, ho visto una recente, una carta incredibile, quelle recenti pubblicate dal Falcone, più a Rimani, alle porte di Cremona. Infine, devo lamentare che nuovo nel suburbio di Bologna, sempre nella prima metà del XII secolo, appaiono dei patroni, qui a Rimani di Conto, ricordati in una carta di Mantova. Il resto nella sua storia di Bologna concentrava che Aranni potesse essere una falsa cultura per Arimanni. Io sono da 4-5 anni in commercio epistolare con le fonti con l'archivio della Patina Mantova per avere la fotocopia di questo, senza ripetere. Ma spero non dispiego. Volevo lamentare questi tre casi che pongono più problemi di quanti non risolvono, ma soltanto per contributo, diciamo, non avrei nulla di problema, grazie. Rispondo subito. Conoscevo il saggio di Bagnetti e non mi convince. E mi fermo a questo punto, come altre sue retrodatazioni, diciamo, ecco. Non mi soffermo ora a dire perché, casi di animali nel suburbio ci sono, direi che ce n'è uno che è evidentissimo per me. E compare addirittura in nome imperiale. Ci sono animali nel Vicus Sancti Zenonis, che è l'insediamento che si è creato attorno al monastero suburbano di San Zeno, quindi in terre già assegnate a San Zeno, che sono poi diciamo, oggetto di lottizzazione nel secolo XII, e compaiono i diplomi fino a Federico I. Io ho dato tutto l'elenco anche dei documenti che riguardano le rimandi, posso essere più preciso. Per quanto riguarda poi le carte di Nonanto e le carte di Cremona, diciamo che possono essere casi analoghi, ho volutamente tralasciato questi rimandi del suburbio. Proprio perché il problema è che condizioni siano queste terre del suburbio. A parte Bognetti, che comunque è un caso a parte, il 3, e qui i due che hai citato, qui aggiungo quello chiarissimamente documentato nelle diplomi imperiali. Però vedete, ad esempio, nei diplomi imperiali, gli animali del Vicus Sancti Zenoni appaiono insieme a quelli di San Vito, di Gaso, eccetera. Bisogna vedere un po' la tradizione, l'attrazione lessicale. Per cui a un certo punto possono esserci delle controversie tra gruppi e il Signore, e o i gruppi di uomini liberi ricorrono, io non credo che quelli della Sacisica, non l'ho detto, ma non potevo del tutto, che quelli della Sacisica fossero animali. Quelli della Sacisica erano uomini liberi che probabilmente, ma adesso non lo scriverò mai, forse posso dirlo senza scriverlo, non lo so se lo scriverò, ma io credo che fossero uomini liberi che animali non erano mai stati, e che per dimenticare una certa condizione di libertà contro la tua signoria, dato nel Comitato Trevigiano, non in quella zona abbandonata del Comitato Trevigiano, che tanto la Treviso non era più controllata, perché era più padovana, pure iniziale che trevigiana, era bassa, che la padovana in età romana, assunta da Treviso in età longobarda, eccetera, eccetera. A un certo punto, vedendo tanti rimandi nel Trevigiano, se noi chi siamo, siamo rimandi anche noi. Sono tanti i modi con cui può essere a un certo punto utilizzato il termine animale, sia per tradizione antica, sia per utilizzazione per evidenza. La parola è tutti i termini di tradizione longobardo-franco utilizzati nella Romagna, dal termine curtis, al termine castro, la decime, ai conte, che sono proprio presi, ripeto, per significare quella cosa, in questo senso. Può essere benissimo che questi suburbani, in un certo momento, per rivendicare una certa autonomia, si chiamino animali. Ossia, l'ente stesso, che nel farsi concedere la giurisdizione sugli animali, si aspetta che includiamo anche questi, adesso mi esprimo in maniera più popolare, diciamo, per rendere più al vivo quello che può essere la controversia, e visto che ci siamo, facciamoci riconoscere dall'imperatore anche la giurisdizione su questi che magari non... E quindi è un caso che rientra in tanti dei casi particolari, però non sono città, e non sono soprattutto cines. Mentre gli animali di Mantova sono Cives, quel bidente Cives, bidente arrivando del 1055, interpolato. Eh sì, ma questo è il punto che il professor Gerante non vuole accettare da anni. Che sia o non sia interpolato, quel bidente arrivando non ha nessuna importanza. Perché se era originario, se era interpolato, fu interpolato nel XII secolo per volontà dei Cives Arimani, indubitabilmente perché il documento del 1126 è originale e sono Cives Arimani, dai Cives Arimani, i quali direttamente, facendo l'interpolazione di loro nel 1055, considerano i Cives del 1055 Arimani. Quindi, Manto interpolato o non interpolato, non conta. Manto non è signor Girolare. Parlerò in... Spero di seguire. E me è interessato moltissimo la conferenza. Mi è interessato moltissimo la conferenza, questo che si tratta di una di queste situazioni di hombres libres, animali, libres, falle, onda de simetría, aunque yo me he referido más bien a la entrada en dependencia de los ondas de simetría. En el caso castellano, habría que hablar más bien de otra realidad que no he tocado yo aquí, sino en otro trabajo, es Labradores del Rey, Königsbauer, esta realidad documentada en el siglo XIII. A partir de su exposición, y a modo de sugerencias, con cierto riesgo de caer en simplificaciones, pero creo que también es importante para acercarse a aspectos comparativos, se me ocurren algunas semejanzas y algunas diferencias con realidades que encontramos en Castilla. Empiezo por algunas semejanzas. Ha hablado en cierto momento de unos hombres de un valle, la Valle, no sé cuál es el nombre, Treviso, a Treviso, que era valle en el sentido no solo un territorio, sino una connotación de un grupo de. Esto es importante porque en el norte de Castilla hay comunidades de valle que tienen una connotación de un conjunto de hombres libres, una cierta realidad comunitaria, para la expresión. E incluso puede darse el caso de valles que íntegramente corresponden al rey, están bajo la dependencia del rey. Otra cuestión, milites animandi. Se ha hablado de unos milites, una zona en que hay unos milites, pero donde no hay animandi. No recuerdo tampoco. Unos milites que llegan a formar una conserjería, un comune. ¿Por qué no hay allí animandi? Y hablan de la configuración de un poder de esos milites. Bien, esto se puede aquí tener en cuenta la comparación y la diferencia entre el señorío de Letría y los labradores del rey en Castilla. Son cosas distintas. Señoríos del rey, señorío de Letría y labradores del rey. En documentos castellanos del siglo XIII se diferencia labradores de Letría, labradores del rey. Son cosas próximas pero diferentes. ¿Qué ocurre? Los labradores de Letría se encuentran bajo una cierta dependencia señorial. Son dependientes de unos hidalgos, que serían como aquí unos milites. Mientras que los labradores del rey no tienen un poder señorial sobre ellos, sino que el poder señorial es el del rey. Luego es algo semejante a la figura de los hombres libres y únicamente tienen como señor al rey. Y sería, por lo tanto, una situación más o menos semejante a los animales. Lo que ocurre es que, ya digo, esto es del siglo XIII, lo tenemos y queda, es del siglo XIII século, y es más como un resto arcaico, más un resto, una reliquia. Sí. Diferencias, y aquí quizás simplifique, pueda hacer una simplificación. Ahora en la propia discusión, a propósito de la anterior intervención, ya se ha referido a una cosa que iba yo a señalar, esa tendencia a unos hombres que originariamente no eran animali, pero se consideran animali para escapar a una dependencia señorial. Eso, si me parece, estaba pensando en esto. Y eso quizás sea un poco una diferencia. En Castilla quizás más es al inicio. Aparecen como labradores, aparecerían como labradores del rey y no tanto tendrían que buscar, inventar esa vinculación para escapar a la dependencia señorial. Por lo menos eso es lo que parece, aunque tampoco habría que descartar la posibilidad de que se diera esto también, para evitar, el caso es, en definitiva, evitar depender de unos señores laicos. Aquí también hay un caso de señores eclesiásticos, y buscar entonces como único señor al rey. Más diferencia quizá esté en el mayor o menor contenido público. Yo pienso que, por lo que he visto, que la referencia a la propiedad de los bosques, la referencia a un tributo público, todo esto aquí es bastante evidente. En el caso castellano, es, digamos, ese señorío regio es, está más en la línea de un señorío, de una persona que es el rey, más tardará en haber ese contenido público. La idea de la propiedad de los bosques, que sea regia, yo creo que hasta el siglo XII por lo menos no se va a configurar. Sì, direi che più che delle domande in senso specifico, le sue sono osservazioni e integrazioni e comparazioni rispetto a quello che ho sovvenuto delineando. Da quello che ho capito c'è tuttavia una forte distanza e differenza cronologica, nonché di situazione istituzionale. Gli esempi che lei cita sono esempi, avete capito, di un'età, XII e XIII secolo, che nell'ambito del regno longobardo italico, diciamo, avviene una situazione totalmente differente. Non dobbiamo, questi rapporti con il potere regio sono più immaginati o rivendicati che esistenti. Se esistevano, esistevano nel secolo IX, nel secolo X, e queste rivendicazioni non sono più efficaci nel secolo XI. Per quanto riguarda il gruppo di uomini e il distretto valle, sì, il termine valle può essere sia un termine geografico sia un termine distrettuale. Nel momento in cui si parla di una valle solcata dal fiume è facile che ci sia un riferimento più geografico che distrettuale. Nel momento in cui si parla di una valle della bassa pianura, è più, io intendo nel XI secolo più un riferimento distrettuale che geografico, ma su questo possiamo anche discutere. Per quanto riguarda appunto poi il fuggire al Signore attraverso il riferimento al regno, per noi è una situazione anteriore, come ho detto prima, non più del secolo XII, XIII, non si può assolutamente più questo problema. Queste affermazioni di Animantus Imperatoris, che sono fatte di fronte al comune cittadino, semplicemente un espediente, magari fondato su questo. Per queste costituzioni, battaglia e costanza. Per quanto riguarda i boschi, mi è capitato qualche anno fa, interessante proprio di beni comuni, in una relazione a Spoleto, la questione controversa non è stata più organicamente ripresa. È difficile dire, pochi si sono, diciamo, anche gli storici del diritto spesso toccano il problema, ma non lo affrontano in modo deciso. Sono i diritti regi sui boschi, sulle paludi, sulle rocce. E io credo che questi diritti regi ci siano stati, sussistano e siano concessi. Beni comuni delle comunità rurali possono avere origini diverse. Io stesso ho segnalato per il X secolo il termine comunia, che sta a significare beni comuni di due o tre possidenti, che non sempre sono, sono beni pubblici. Ma è certo, nel momento in cui ci sono le controversie tra il XII e il XIII secolo, i beni comuni, i boschi, ho citato alcuni esempi veronesi di Pedovani e Cresciani, sono visti come beni del Signore e della comunità, in un rapporto difficile nella compartecipazione e nell'usufrutto. Anche se al Signore in genere viene riconosciuto uno superiore potere di controllo che magari è esercitato dagli ufficiali della comunità, in una gestione appunto complessa dei beni. D'accordo. Abbiamo qualche esempio di boschi e di beni comuni, ma questo lo voglio dire. L'esempio è Mantovano, dove si vede che i boschi concessi, i beni comuni boschivi concessi dall'imperatore, diventano beni comuni della città, non posti vicino alla città, ma posti al limite della città. Questo è chiarissimo. C'è un esempio veronese. La Silva Rimanorum del 970 e zone vicine, nell'epoca degli anni 70-80-90, a cavallo della pace di Costanza, è rivendicata come Silva Comunis Verona ed è distante 20-30 km dal comune di Verona. La palude di Zeglio, bene per origine fiscale, dopo la pace di Costanza è rivendicata, è a 15-20 km da Verona, è rivendicata dal comune di Verona come Palus Comunis Verona e atto una bonifica. In certi casi è attestata la continuità di questi boschi o paludi o zone controllate dal potere regio, sfruttate dalle comunità, sfruttate dagli animali, sfruttate dai signori attraverso vari modi. A questo punto il comune, quando si costruisce, soprattutto dopo la pace di Costanza, attorno alla pace di Costanza, nel privilegio di Costanza, un amplissimo articolo concerne proprio beni comuni che sono minutamente elencati: boschi, paludi, acque, peschiere, eccetera. Sulla base di questo, i comuni cittadini prendono per se stessi, questo è il Svalia Padana, che è un'altra zona che hanno contributo dei bilanci sui beni comuni, certo, risaltano dopo, prendono per se stessi come eredi dei poteri pubblici e dei diritti pubblici. Non ho risposto a tutto, ma c'è la volta no. Ci sono i beni comuni suburbani, in caso di Cremona, del XX secolo, sì, ci sono i Oui, merci. La question des Allemands me semble passionnante. J'en ai souvent entendu parler puisque un élève de Pierre Toubert, que vous connaissez certainement, Gérard Rip, on a lui aussi étudié, je crois que vous avez des interactions avec lui, les Allemands de la Satchisica. Et alors, ce dossier suscite quelques réflexions, et en particulier, nous sommes quelques-uns à être passionnés par lui, parce que, dans le fond, c'est la question d'une classe ou d'une situation sociale un petit peu intermédiaire entre la noblesse et l'asservissement. Et puis, c'est une situation intermédiaire tout de même assez durable, puisque cela vient du Moyen-Âge, c'est à la fin du XIIe siècle que finalement le statut et les droits des Allemands deviennent quelque chose de tout à fait problématique et que la territorialité, l'espèce de réorganisation générale de la commune, le met en question. Ça ne veut pas dire que cette continuité des Allemands n'est pas, bien entendu, nous le comprenons, à faire intervenir aussi quelques changements capisco. Au fil des siècles. Non, capisco, il n'est pas le soir, capisco, non, on peut tenir comme ici, à la boque. Plus près. C'est bravo. Donc je disais, cela passionne comme une situation intermédiaire assez durable, finalement, et de part et d'autre de l'ennui, n'est-ce pas, même s'il y a des évolutions. Alors, en France, nous rencontrons au moins deux types d'hommes qui posent un petit peu les mêmes problèmes que les Allemands, et même d'assez près. Il y a d'abord les Franquis de la Bourgogne, qui sont évidemment un nom que les historiens d'autrefois jugeaient un nom ethnique, puis que maintenant nous interprétons de manière plus sociologique. Les Franquis de la Bourgogne, à propos desquels il y a des explications de déléage, et qui en particulier sont en possession, je dis, on a parlé aussi, d'une terra franco-route, d'une silva franco-route. Et au cours d'une réunion de discussion sur la société médiévale, à Lyon, il y a un an, nous avons été amenés aussi, à quelques-uns, à faire un rapprochement avec la situation des Varassores normands, c'est-à-dire des hommes qui ont, un petit peu comme les Arimani et les Franquis de Bourgogne, d'abord des droits d'usage sur de la forêt, et ensuite tout de même une certaine relation d'immédiateté avec le pouvoir comtal. Si bien que, à plusieurs, nous pensons qu'il faudrait vraiment pousser et comprendre mieux l'étude de ces classes intermédiaires. Est-ce que c'est possible? Est-ce que de la documentation le permet? Mais en tout cas, plusieurs de mes collègues français pensent qu'il y a là, si vous voulez, un enjeu dans le débat sur ce qu'était la société du Xe et du XIe siècle qui est très important. Parce que si on arrive à éclaircir vraiment ces situations intermédiaires et ambivalentes, on peut arriver à décider s'il y a ou non un fossé profond entre ceux qui participent à l'exploitation seigneuriale et ceux qui la subissent, ou bien si dans la société il n'y a pas plutôt une série de gradations, une série de situations un petit peu ambivalentes qui finalement, je crois aussi que c'est une préoccupation de la sociologie moderne, représente le cœur de la société et finalement verrouille l'ensemble du système social. En tout cas, c'est l'hypothèse de mes collègues. Alors, est-ce que vous ne pensez pas d'autres pas que nous pouvons imaginer que certains arrivent à nous voyagent incognito, c'est-à-dire que l'on peut être arrivé à nous, mais ou être arrivé à nous, et ne jamais apparaître en tant que tel dans la documentation, apparaître sous d'autres noms. Et est-ce que vous accepteriez l'idée aussi que finalement il n'y a jamais d'Arimanus isolé, mais toujours l'appartenance à un mouvement humain d'Arimani qui a sa cohérence et qui est qualifié pour tout un secteur de la vie sociale et politique? Io ho fatto fatica a seguire proprio il suono della voce che mi sfuggiva. Mi pare che sono osservazioni, come dicevo prima, in gran parte integrative. La domanda che lei pone, si è posto la domanda nella parte finale, sul rapporto tra quello che può essere la presenza dell'animano singolo, ho capito bene, e quello che può essere invece l'appartenenza dell'animano a un gruppo, una questione, sì, sempre in gruppo. In genere, negli esempi che ho citato, si tratta di gruppi di animani, anche se a volte molto simili. Abbiamo il caso del 1055 di tre piccoli gruppi composti di ognuno di quattro uomini che dal duca sono donati al monastero, donati che significa? Cioè dare giurisdizione su loro e sulle cose loro che permettono agli animani di assolvere agli obblighi pubblici. Per quanto concerne la comparsa del singolo animano, questo avviene nel momento in cui il singolo animano è protagonista di una controversia. Allora il ricorso alla definizione ego sum animans imperatoris evidentemente è un ricorso unico, che unico è colui che propone la causa contro gli agenti signorili, ma si fa sempre riferimento a una qualificazione, a una qualifica in generale che si pensa essere intesa comunemente. Anche se io penso, e ho suggerito, che questa definizione sia sì forse frutto di una tradizione, lo è senz'altro locale, ma in questa definizione orgogliosa e tecnica deve aver avuto una larga parte l'esperto di diritto, cioè l'avvocato delle fonti chiamate causinicus, che suggerisce una risposta in linea con quelle che sono le costituzioni federiciane di Roncaglia e di Costanza, ora il termine Arimania compare. Notiamo che compare il termine Arimania. Non è affatto, io credo di averlo sottolineato più volte, anche se io sono volato, detto di dove c'è Arimania ci siano gli Arimani. Il termine Arimania a un certo punto diventa sinonimo di censo, di tributo, di collecta, di esazione, di tante altre pubblica funzione, come la chiamata nel X secolo. O addirittura più tardi forum, che viene equiparato in certe fonti locali ad Arimania. A questo punto il termine diventa la designazione, indica un censo. Ed è veramente assurdo, come è stato fatto, prendere. Ma no, inizialmente, ma poi diventa solo censo. Dovuto al signore, qualcuno lo chiama Arimania, tu si dice Arimania o colletta o foto o pubblico, sì, nel senso di rapporto pubblico verso il signore, sì. Ma perde questo connotato iniziale. Per cui, a un certo punto, questo è stato fatto nel passato anche di recente e talvolta continua a essere fatto. Divio un po' da quello che lei dice. Si trova il termine Arimania e se qui ci sono gli Arimani. Poi, dagli Arimani, questo era prima del tabacco, veniva normalmente, ma viene anche dopo il tabacco, si risale, un suo accenno agli aspetti etnici, se ho ben colto, no? Si risale sempre più indietro dalla Rimania agli Arimani e dagli Arimani ai Longobardi. Ma che è stato fatto e continua, proprio non solo degli storici locali, molti anche addetti ai lavori, continua a fare la ricostruzione del popolamento in metà della domanda. Vabbè, sono un po' deviato, di modo c'è. Lucio l'intervento, no, due ore, ormai sì, no, con la domanda prendi solo semplicemente, anche perché sono due ore, insomma, al quarto chi ha davvero finire, la tua relazione è interessantissima, volevo sottolineare un aspetto che tu poi non hai sviluppato perché parlavi di animali. e che io non svilupperò perché era fuori, nella mia documentazione finiva oltre i termini cronologici, quindi l'ho lasciato cadere. Vale a dire il problema della doppia giurisdizione superiore su due territori, cioè due poteri di notevole entità, nel caso tuo mi sembra un vescovo e un monastero forse. Ma la Chiesa Romana è un vescovo. Ecco, la Chiesa Romana è un vescovo, un signore, un signore, un capitolo. E esistono altri esempi, soprattutto nella zona Piemonte e nella zona Solana, che sono estremamente interessanti, e che proprio per la presenza, no, di questa doppia giurisdizione finisce per crollare il discorso territoriale della signoria. Cioè, voglio dire, per la presenza di due grandi personaggi che detengono o dicono di detenere i poteri superiori, nel caso mio, vi faccio un brevissimo accenno, i conti e il vescovo, che hanno entrambi documenti imperiali di Federico I sul territorio, arrivano a una soluzione di compromesso, cioè non riescono più a dividere il territorio e allora finiscono per dividere gli uomini presenti sul territorio. Si arriva a situazioni allucinanti, nel senso che nella seconda metà del 200, dopo una prima divisione con l'elenco di tutti i capi famiglia che spettano all'uno e spettano all'altro, in età toriana, e la Sacerdoteo ha dimostrato che l'età toriana è un'età in cui si conta, e si conta tanto, mi spiego, arrivano addirittura a stabilire chi erano le persone di 50 anni prima e quali sono gli eredi che nel frattempo si erano trasferiti perché erano stati costituiti borghi franchi e così via, e li elencano uno, per un totale di 42 pezze di pergamena con i nomi dei singoli capi famiglia. Ecco, questo ha fatto completamente saltare la signoria territoriale. Però un criterio per riuscire a capire a chi appartenessero gli loro, gli uomini, e a chi dovessero versare il fodro, a chi dovessero ubbidire, a quale giudice dovessero accedere, bisognava essere trovato. E non fu quello territoriale. Questo è estremamente interessante. Molto. Grazie. Posso dire che, forzando un po', vi ho detto quasi scherzando, si creano delle isole di immunità all'interno delle signorie. Non solo immunità per questo, ma nel XII e XIII secolo si ricorre anche a una specie, a una similitudine dei processi di castellamento. I potenti, all'interno del territorio controllato da un castro, si creano di piccole fortificazioni, creando di nuovo quel processo di frammentazione del potere. Questo è documentato, quasi risalendo al X secolo. Quindi poi il comune libellerà e si penserà a voi. Questo fanno anche i comuni rurali. Ci sono delle località che si staccano dalla signoria e formano piccoli, certo, territori, che anche la moltiplicazione dei territori che diventano più piccoli. C'è ancora una breve domanda. Una domanda, semplicemente una conferma. Sì. Cioè, quello che lei ha detto sulla Rimannia è evidentissimo in territorio perugino. Cioè, la Rimannia è semplicemente un onere aggiuntivo che viene fuori delle elencazioni che noi vediamo negli atti di affrancazione, insieme alla manetria, tutto a tutti altri insieme. Quindi, per non tralasciare niente. Grazie. Mi scuso per vedere un po' il silenzio e grazie.